24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. 3, 2, 1, vai! Ehi! Qui e qua! Via, via! Andate via da lì, dice Berlusconi. Niente più si lega al Parlamento, il governo cade in un momento. Voglio le elezioni, voglio le elezioni, voglio le elezioni e le dimissioni. Voglio le elezioni, voglio le elezioni, voglio le elezioni, caro amico tu. Chips, chips, vattene anche tu, cibo, cibo, vattene anche tu, cibo, cibo, vattene anche tu. Straordinario Fiorello, la vede così la situazione attuale, cari ascoltatori? Queste 24 mattino, sono le 6:32 minuti, tra qualche istante, e siamo qui in diretta fino alle 9. Voglio salutare subito Miriam Lucchetti in redazione e il nostro alpino Peter Bescapè in regia. Che dire, la situazione politica è quella che è, è quella che è. Di certo, se vi siete alzati già questa mattina, vi troverete a fare i conti con l'IVA aumentata. Ah, quindi aumenta un po' tutto, a cominciare dalla benzina, la benzina. Avete fatto benzina ieri? No, vi siete dimenticati, vi siete... Peter fa sì, io sì, sì. Miriam dice no, no, vabbè, insomma, vabbè, ma un pieno cosa vuoi che sia? Avete, Peter, hai risparmiato un euro hai risparmiato, insomma, e te ne avanti, apri subito il Parlamento, andiamo! A un caffè si può avere? Il caffè volentieri a tutti quanti. Evviva, offre Nicole Minetti con l'IV caffè, Eva? Ha aumentato, no? Il caffè è una di quelle cose, sì. La macchinetta no? Vabbè, ci farà la moca almeno, Nicole Minetti, no? La macchinetta, vogliamo un caffè fatto con la moca, insomma. Voglio salutare subito Vincino, eccoci. Grandissimo Vincino, eccoci qua. Ecco. Grandi giorni questi qua. Grandi giorni. Spettacolo, guarda. Io l'avevo detto, da mesi dicevo, succederà tutto in autunno, ricorderemo quello straordinario autunno del 2013, che succede? Niente, cade tutto, crolla tutto, succederà, no, non si sa, ci sono... Crolla, questo governetto crolla, dai. Ci sono riposizionamenti. Questo è il governo più inutile e assurdo dal governo Goria, quello là che Forattini disegnava senza faccia perché era inesistente. Ma questo è un altro governo totalmente inesistente. Grande spettacolo, docu fiction di ieri sera di Santoro. Ah, aspetta. Tra l'altro, il governo Goria talmente inesistente che manco me lo ricordavo. Quindi, infatti, l'hai citato. Fammi salutare vicino Carlo Rienzi, ben ritrovato, presidente del Codacons. Ah, grazie, buongiorno. Come sta, Rienzi? Lei è uno di quelli che ha fatto 5 taniche di benzina. Dice: non mi fottono a me. No, io vado proprio a piedi. Ho risolto il problema. Lei, da consumatore o presidente dei consumatori, come la vede questa situazione politica un po' incerta, un po' instabile? Noi veramente abbiamo detto: Berlusconi venga a fare il servizio sociale al Codacons. No, anche voi. Autosospenda da senatore voi. E si faccia come in Bielorussia, dove un certo Eugenij Shigalov, che era uno che ha fatto una grande evasione fiscale, è stato condannato a costruire uno stadio, 40 milioni di dollari, e la gente passa e dice: ah, vedi che bello, ha pagato la pena, ma che ci facciamo con Berlusconi in galera? Questo è il posto. Anche tre stadi lui farebbe, questa è una bella idea. Al Codacons, ma Vincino, ma te lo vedi che risponde, che risponde ai consumatori? Invece di dare 450 milioni del Benedetti, ha detto che sta male, proprio non è che non ci dorme la notte come si vede, no? Sì, faccia 10 stadi e... Bah. 10 stadi, sì. Così va. Quello del Napoli sarebbe contento, quello di Catania, in tutta Italia sarebbero contenti tutti. No, perché la forse Mina... anche il Milan, no, il Milan ce l'ha. Insomma, non è del Milan, però. La Pina, la gente la vuol vedere. Cioè, ma che Rienzi, mi si è svegliato come di quelli in America che mettono i lavori forzati. Io se vedo una cosa accusato di un reato e che mi viene a mio vantaggio, sono più contento, perché invece così l'evasione fiscale c'è stato lo stesso. I domiciliari, adesso i domiciliari, ma che ci faccio? Va bene, lei lancia questa proposta. Vincino, però è uno spreco assurdo. Vincino, però io così di spettacolo che anche quando dorme di notte viene svegliato dalla telefonata, fa spettacolo e fa cifre assurde in televisione. Ma te lo vedi Vincino che risponde a quelli del Codacons, gli vende le robe invece che magari accogliere le proteste di consumatori che si sentono truffati. Berlusconi al Codacons, non lo so. Bisogna capire come finirà questa vicenda. Voglio chiedere il vostro pronostico. Vincino tanto segue tutto giorno e notte, la Camera, il Senato. E come sono le sedute? Sono sospese ancora? Ieri c'è stata una noiosa, c'era quasi nessuno, ma perfino Vincino. Il Senato credo oggi o domani c'è grande spettacolo, naturalmente. Grande spettacolo. Perché Letta deve fare un discorso con cui diventa il capo del PD e fotte Renzi, no? E questo è una cosa difficile. Va alle elezioni vincendo lui tutto, insomma è una cosa che non è della sua, come dire, non è per ma lui. Che dite, ma non se ne andranno mai, ma insomma, ma avete conosciuto e che i politici? E che fanno Renzi? Trovano allora niente, voteranno e ci sarà una nuova maggioranza, perché la poltrona ma questi eletti, che sono per lo più gente sconosciuta, per esempio quelli dei 5 Stelle hanno preso un terno all'otto, non se ne andranno mai, dicono di volere le elezioni, ma adesso vedrete quando voteranno, sia loro che quelli del PDL, che se finisce non verranno rieletti, perché figurati quelli dissidenti se Berlusconi li fa ricandidare, quindi ci sarà una forza in Senato che sarà enorme per la poltrona, una Renzi vera dice, maggioranza forte. Sì, Renzi dice per la poltrona Vincino non se ne andrà. No, assolutamente, poltrona e pensione. Ora Crocetta sta governando praticamente contro tutti i deputati del PD e a suo favore tutti i deputati del PDL o ex Micica, che sono tutti diventati crocettiani di quelli. Ma che c'entra Crocetta? L'uomo politico siciliano, no? Che è quello capace di tutto, non c'è lo stesso meccanismo anche istituzionale, praticamente può perdere la fiducia, ma poi deve fare un governo. E il governo con chi lo fa? Lui, già ieri l'hanno detto tutti, cioè, non vogliono fare un governo, come lo fa? Cosselli e quelli di estrema destra come lo fa? Chi lo sa? È complicato. Subito Vincino, sai i giornalisti che sono andati a inseguire subito tutti attenzionare chi? Scilipoti, ovviamente, a capire, no? Scilipoti che farà. Sentite Scilipoti inseguito da un giornalista. Pronto a morire per Berlusconi, oppure... Stiamo andando a fare una riunione, siamo pronti a morire per l'Italia. Ma mercoledì lei potrebbe anche votare la fiducia al governo? Ma può anche darsi che non si presenti in questa occasione. Ma siamo pronti a morire per l'Italia, Vincino, così Scilipoti. Scilipoti è una balla colossale comunque. È pronto a morire per l'Italia, Scilipoti. Vabbè, ma adesso tutti guardare subito Scilipoti. No, ma questo difatti è una cosa, come dire, non... Sì, quelli senza fantasia. Il punto è, per esempio, già subito si fa la conta dei voti, pare che manchino 22 voti, cioè se tutti quelli del PDL, e qui già c'è da vedere, facessero mancare il voto Enrico Letta, mancano 22 voti per una maggioranza, e già al Senato ovviamente Carlo Renzi già si guarda al voto dei senatori a vita, a quelli che sono stati nominati da poco, faranno voti a conciliare gli impegni internazionali stati nominati apposta da Napolitano, il governo Napolitano Letta si è messo al sicuro, ha nominato i senatori a vita, adesso farà questa votazione, avrà tanto consenso, i ministri saranno presi da finti tecnici, perché dovranno fare soltanto due leggi, la legge finale di stabilità e la legge elettorale. Elettorale, lo sapeva, no, è una barzelletta Renzi questa legge elettorale. Lo so, è una barzelletta, però è quella, bisogna farla, perché francamente non si può continuare così. A noi lo dice, io lo ricordo, siamo nella 22esima settimana decisiva per la riforma elettorale di questa legislatura, poi ci sono quelle passate con Napolitano che aveva bacchettato tutti, vi avevo detto di fare la legge elettorale. Ma poi come se contasse qualcosa la legge elettorale? Ma la come? Legge elettorale non dà niente. Ma no, questa legge elettorale dà instabilità, Vincino. Chi è bravo vince con il Mattarello, con questa legge elettorale. Ma certo. Come dice Vladimiro Chisafulli, vince anche al sorteggio. Mi hai tirato fuori Vladimiro Chisafulli che disse: io a Enna vinco col proporzionale, col maggioritario e pure col sorteggio. Questa fu una grande. Come ti è venuto fuori Vladimiro? Io guarda, da due giorni studio il politico siciliano, guarda, che è un mito praticamente. Vladimiro Chisafulli. Capace di tutto. Io ho visto ieri in internet un deputato siciliano, ex sottosegretario, che vai a vedere le sue immagini, lo trovi con cartellone elettorale dietro di tutti i partiti. Lui si è presentato alle elezioni con tutti. Così era sicuro. Siracusa, non ti dico il nome perché. Vabbè, non mi vuoi aiutare troppo. Ma volevo capire. Di Siracusa. Ma Vincino, il busto di Andreotti non lo hai? È ancora là, sempre là, perfetto. Lui è il padrone dei deputati siciliani. Non gli hai chiesto in questi momenti, in queste giornate così, caro presidente, come finirà questa crisi di governo? Guardi, qua siamo pieni di gente che voleva la botte piena e la moglie ubriaca, praticamente. No, capito, ma Andreotti che dice di questa situazione? Non favella, Vincino, non parla. Lo interpreto io, come dire, ogni tanto, ma poi che eravamo molto distanti, devo dirti, politicamente. Non ci sopportavamo quasi, però... Condividevate la casa, perché Carlo Rienzi, devo spiegare a Carlo Rienzi, Vincino in casa ha un busto in marmo di Andreotti, non l'ha più mollato. Io pensavo che parlava con gli fantasmi. No, c'ha un busto in marmo, lo tiene gelosamente, lo custodisce da... Vabbè, è stato un uomo di un certo spessore, Andreotti. Da anni, sì. Come Craxi, come tanti altri. No, ma è chiaro. Rienzi, la questione dell'IVA, allora, torniamo su questo, cosa volete fare voi del Codacons, non mi dica che fate esposti eccetera, perché tanto questa è aumentata, che dovete fare? Niente, noi abbiamo segnalato, abbiamo fatto i conti e abbiamo visto che l'altro aumento dell'IVA ha dato una diminuzione di introiti per contrazione dei consumi superiore, ma molto superiore a quello che era stata l'entrata data dall'aumento dell'IVA. Allora abbiamo detto, ma scusate, vi siete fatti i conti? Se voi aumentate l'IVA ci sarà una contrazione dei consumi e complessivamente incasserete di meno. Lo so. Fate qualche cosa di diverso, tipo riprendetevi i 4 miliardi che avete dato al Monte dei Paschi di Siena, tanto ormai l'Europa dirà che va nazionalizzata, giustamente, perché non può fare quello che ha promesso di fare. Oppure tagliate finalmente le spese inutili, che sono una enormità. Ma sono quelli non ascolto. Gli enti cosiddetti pubblici con tutti questi consigli di amministrazione che prendono un sacco di soldi, sì. Basterebbe quello, non dico le province perché tanto ormai la barzelletta è diventata quella delle province, abbastanza. O le regioni, o smezzare le regioni, o smezzare le province, queste tutte poltrone, sì. E i politici le poltrone non se ne sono mai tagliate da soli. Ma quelli com'è che non ascoltano? Invece che fanno? L'IVA. Che cretinate, voglio dire, se poi diminuisce l'introito che l'hai fatta fare? Lo so, ma subito si immagina che possano entrare più soldi. Vabbè, Vincino, che vuoi? Devi parlare delle intercettazioni. Ma che è successo? Ieri praticamente Berlusconi parlava con un parlamentare un po' misterioso del PDL. Aspetta, prima un senatore e un parlamentare si parlano a notte alta, no? Sì. E come dire, è tutta Italia, una cosa che l'articolo 15 della Costituzione dice che le conversazioni, le cose sono, come dire, private. Perché tante leggi dicono che questa cosa qua è impossibile sentirla in televisione, vederla in televisione. No? Infatti io penso che è una docufiction per questo. No, c'è un'invenzione. Allora spieghiamo, era Piazza Pulita. Perché imitare Berlusconi non ci vuole niente, tutti i imitatori lo sanno fare. Addirittura, in questa telefonata. Chiaramente se Napolitano ha fatto la trattativa, ha bloccato il processo sulla trattativa, che gli voleva a lui di riconvocare una corte là. di Castiglione. Vabbè, comunque spieghiamolo, sarebbe un clamoroso fuori onda, cioè Berlusconi che chiama un collega parlamentare e ci sono quelli di Piazza Pulita, questo collega parlamentare mette in viva voce la telefonata e in questa telefonata Berlusconi dice che Napolitano ha fatto pressioni sui giudici della vicenda Mondadori, una roba clamorosa sarebbe, veramente sdegno. Cioè clamoroso anche che ha fatto 2 anni di battaglia contro Napolitano e Ingroia lo voleva portare a Palermo perché voleva bloccare il processo sulla trattativa, figurati che gliene fregava di riconvocare una corte, cioè molto più ma sì cosa, il vero scandalo grave. Secondo me il vero scandalo non è tanto quello che o non è solo quello che dice Berlusconi, ma sono due vicende, quello che dice Berlusconi che avrebbe fatto Napolitano e che questa telefonata poi è anche in onda, sono due le vicende che creano polemiche. In onda è uno scandalo di quelli che siamo abituati a queste cose qua, per questo io penso che una docufiction ma che è un'invenzione, sono inventati tutto, ma sarebbero passibili di una mega querela. Bisogna che dal pubblico ministero passa avvocato di parte civile. Vabbè. Andiamo a sentire il traffico e rientriamo. 24 mattino. Ciao Milan, ho fatto un sogno. Una fiera di valchiri rapiva il Silvio Cavaliere senza macchia. Lo hanno portato nel loro regno, dove tutti vissero felici e contenti. Per grazia ricevuta, gli italiani resero un tempio a Odino. Purtroppo solo un sogno. Ciao Milan. Oi boh, la banda Bassotti ha fatto cadere il governo. E la donna di gomma, la Budolino Lady, la Saltanchea, ancora che parla. Ma in mano a chi siamo? Siamo una vergogna di paese. Siamo i ridicoli del mondo. Io non capisco chi li vota questi fenomeni di ignoranti. Caro Milan, dovremmo contare fino a 3 miliardi per non farci prendere dalla rabbia di questa gentaglia che ci governa. Sono stanco di sentire o di vedere questa gente che ci prende per il culo vita natural durante. E non è una questione di stipendio che rubano, ma è una questione di legittimità, perché alla fine si sentono più uguali degli altri. Altro che forcone, Milan. Come elettore di centrodestra mi sento veramente preso in giro da quel pregiudicato che tira in ballo l'IVA per salvarsi il deretano. Ciao Alessandro, io non mi voglio per oggi procurare un forcone, è lunedì 30 settembre, però procurerei una zappetta a te da 3,5 kg e un'altra zappetta da 3,5 kg a Naccarato, quello che hai avuto come ospite. Tu gli hai lasciato fare un bel comizio, ma non gli hai mica chiesto se lui non era quello che mercanteggiava voti per il governo Berlusconi recentissimamente. Porca miseria, Alessandro, cazzo, ste cose ti sfuggono. Ciao, va, migliora. Vabbè, migliorerò magari con la zappa rieducatrice, Vincino. Con e due zappe. Questa, la due oggi, zappe. Sentiamo il mitico, ce l'abbiamo ancora il mitico Angelino? La zappa ci vuole, la zappa da 7 chili. Ecco, questa ci vuole, la zappa da 7 chili, poi continuava, vabbè, zappa Lucampo. Allora, siamo con Carlo Rienzi, presidente del Codacons, con Vincino, con direttore del Male, chissà come andrà a finire, chi lo sa, anche secondo il giornale che titola oggi sono solo 7 quelli che molleranno il Cavaliere al Senato, questo almeno dice il giornale. C'è una persona che è semi disperata. Rienzi, sa chi è? Ieri è stato interrogato. No. Non riesce a vendere casa. Non riesce a vendere casa. È scaiola. Dice. E perché ride? Dice che la casa al Colosseo non ci vivo più. Siccome l'aveva promesso, la vendo. Ma appena sanno di che casa si tratta, tutti che scappano. E quanto l'ha messo? Eravate a vedere, volentieri. Ma magari ha chiesto troppo. E appunto, no, invece ne fa una questione, dice la gente appena viene a sapere poi di che casa si tratta. Ma poi... come quelle case dove si dice che c'erano i fantasmi. Sì, più o meno, no, vabbè, il diavolo adesso. Invece in America le case abitate da gente famosa vanno proprio a molto di più. Ah, c'ho una casa dove stava Scaiola. invece in Italia proprio, no, come dire, indietro, come, come a Hollywood dice la casa hollywoodiana, non so, di Kevin Costner, invece qua in Italia dice, sono 12 stanze di scaiola con vista al Colosseo, ma come dire, io di corsa avessi i soldi, E come no, e invece non riesce a venderlo, tutti i giornali, scaiola a Caralgioli, non riesce a vendere. Vabbè, invece devo chiudere con questo: se non avete visto Repubblica la vedrete. Che sta succedendo a Eugenio Scalfari? Oggi ci sono 4 pagine di intervista al Papa Francesco. No, Vincino, stai fermo. No, Vincino. Sì, l'avvicinamento al momento finale. No, addirittura, adesso. No. Non è per cattiveria, è un fatto psicologico profondo. Ma guarda, che anch'io, in realtà, col massimo rispetto, anch'io ho fatto questo commento in maniera un pochino più brutale, magari, prima di andare in onda. Ma insomma, Eugenio Scalfari, evidentemente, vivrà ancora 130 anni, insomma, però, no, si sta forse vicino, riavvicinando. Si sta raccomandando al Signore. Come raccomandando? Ma è una reazione normale, non bisogna nemmeno troppo. Anche il coso si. No, ma è bellissimo, a un certo punto Contuso diventò là sul letto. Sì. Ma è a un certo punto, com'è l'appuntamento? Mi chiama, mi dice la segretaria, racconta Scalfari, mi le passo il Papa. Io tutto sconvolto. E il Papa dice: senta, guardi, guardo l'agenda, lunedì non posso, mercoledì non posso, martedì alle 15 va bene? Sì, grazie. A Santa Marta, entri pure nella porta del Sant'Uffizio. E così inizia la verità, stiamo aspettando anche noi una telefonata del Papa, eccola, perché a coda con Licci, abbiamo Licci. Scritto una lettera chiedendo Licci di vederlo per una serie di motivi legati a problemi del Vaticano. Sarà facile. È una proposta importante contro la crisi per i più poveri. Sarà facile. Un colpo di telefono. Tenga sotto controllo il telefono, Rienzi, che magari la chiama il Papa. Sarà facile. Comunque, 4 pagine di Scalfari con il Papa. Inizieremo da qui, forse, la segna stampa tra poco, dopo il giornale radio. Grazie a Carlo Rienzi, grazie a Vincino, alla prossima. La zappa ci vuole, la zappa da 7 kg, a Zappalucampo dalla mattina alla sera e a pranzo una cipolla e un pezzo di pane duro e a cena una minestra scunnita. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Ed eccoci allora alle 7:16 minuti, cari italiani, siamo qua a leggere i giornali con voi e vi ricordo che oggi parleremo della situazione politica attuale, situazione difficile, avremo ospiti politici, sarà con noi Giancarlo Galan del Popolo della Libertà, sarà con noi Nicola Morra, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, sarà con noi il direttore del Fatto Quotidiano Antonio Padellaro e ci vogliamo chiedere e vogliamo sapere anche da voi, cari italiani, allora cosa succede questa settimana, domani soprattutto ci sarà la fiducia, sono lì tutti col pallottoliere al Senato a capire ci saranno i voti o no per tenere in piedi il governo Letta, lo scopriremo più avanti, intanto andiamo a scoprire anche cosa ci propongono i quotidiani che trovate in edicola. In questo martedì 1 ottobre i titoli intanto dei quotidiani, il Sole 24 Ore apre su spread e borsa, sale la tensione, dunque la situazione politica incerta vissuta dal punto di vista delle borse. Per il Corriere della Sera Berlusconi attacca, scontro con Napolitano, duro faccia a faccia tra il Cavaliere e Alfano, vicini alla rottura nella notte. Repubblica apre invece con un'intervista di 4 pagine di Eugenio Scalfari al Papa, il Papa così cambierò la Chiesa. C'è aria di premio.

nella pagina 28 del Sole 24 Ore di oggi, l'INPS ha diramato queste istruzioni. Attenzione, ci sono non tantissimi soldi, quindi anche qui è importante arrivare per primi. E poi ti do un'ultima percentuale, 19%, anzi 19,4, non è l'aliquota IVA che verrà, ma è il tasso soglia per l'usura, per il credito al consumo negli acquisti a rate. Cioè, attenzione, se fate un acquisto a rate, non è detto che la percentuale del 12, del 15, persino del 18% sia usuraria. Anzi, in questo momento, dal 1 ottobre, il tasso soglia per questo tipo di acquisti a rate è al 19,4. Quindi, attenzione, sono i nuovi valori, varranno per un trimestre. È lecito, è assolutamente lecito, così segnala il decreto che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la comunicazione, pardon, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Attenzione a questi tassi soglia quando chiedete un prestito, e come vi dicevo prima, per le rate dei condomini che non pagano, ecco, è una, può essere un'evenienza che capita sempre più di frequente. È certamente utile, e non è, come dici tu giustamente, l'IVA, visto che sarebbe già buona al 19,4%. Va bene, grazie a Mauro Meazza, e ricordatevi, amici di Repubblica, che la carta costa. Eugenio Scalfari, chiamatevi col Papa, chiamate, però 5 pagine su Repubblica. 24 mattino. Siamo ancora qui alle 8:18, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, cari ascoltatori, che succederà domani al Senato? Chi lo sa? Intanto, che è successo in questi giorni? Bene, sono successe di tutti i colori, con, almeno dai resoconti di giornali, pallottolieri che si sprecano per cercare di capire se arrivano i 20, 22, 24, chi dice 18 voti necessari, togliendo eventualmente tutti quelli del Popolo della Libertà, a garantire una nuova maggioranza al premier Enrico Letta. E all'interno del Popolo della Libertà, invece, almeno sempre da resoconti di giornali, redderazione proprio, cioè faccia a faccia anche brutali, pare, tra Alfano e Berlusconi. Addirittura per il Messaggero le lacrime isteriche del ministro Beatrice Lorenzin, ma forse, scrive lo stesso autore dell'articolo, sono maldicenze che vengono messe in giro per far capire che il clima è un po' quello che è. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, cari italiani, diteci la vostra su questo momento politico che seguiamo per il secondo giorno consecutivo. Detto che, se non ci dà certezze la politica, una certezza ce la dà il portafogli, che è certamente più leggero da oggi, perché a mezzanotte è aumentata l'IVA. Quella è l'unica certezza dalla quale non possiamo scampare. Voglio salutare il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno direttore, ben ritrovato. Grazie, buongiorno a voi. Così come saluto l'onorevole Giancarlo Galan, che presiede la Commissione Cultura. Buongiorno onorevole Galan, eccoci. Buongiorno, un saluto a tutti. Lei che di Forza Italia ha fatto parte, lei che ha sempre detto bisognerebbe tornare già in tempi non sospetti a Forza Italia. Allora, che sta succedendo? Non mi dica che va tutto bene o che c'è una normale dialettica all'interno del partito. Cioè, la Lorenzini intanto ha pianto in maniera isterica, come scrive qualcuno? No, io questa non l'ho vista, anzi l'ho vista abbastanza distesa, abbastanza tranquilla, non direi sorridente, ma insomma ieri quando ci siamo incontrati, quindi non so se sia vero, conoscendola non credo che sia vero, che ci siano tensioni e diverse sensibilità, mi sembra anche scontato. Non è che sia felice, non le dico che tutto va bene, ma se le dico che se fossimo nel Partito Democratico, questa si chiamerebbe dialettica interna, che è anche più feroce fra alcuni esponenti. Solo che lì pare che invece ieri Cicchitto abbia alzato la mano a dire qualcosa e Berlusconi abbia fatto che no, qui non si discute, vieni a cena se vuoi discutere, cioè è il contrario della discussione. Dare la parola a Cicchitto, avremmo dovuto darla a tutti quelli che l'avevano chiesto, ma non c'è nessuna. La volta precedente, nella riunione precedente, io avevo alzato la mano per primo per intervenire, ma poi si è deciso che erano comunicazioni e nulla più, no? Lì francamente sarebbe forzata una polemica, ci sono occasioni di dibattito e ci sono occasioni per cui si ascolta e si chiude la riunione rapidamente. Cicchitto ha talmente tante... Non ho perso. gli cambi la vita. Un'occasione non cambia la vita. Senta Galan, ma è vero che Berlusconi vuole andare al voto e si è ipotizzata l'idea del 24 novembre? Cioè, secondo lei, a questo punto bisogna accelerare, non c'è più il governo Letta e bisogna andare a votare? Io credo che sì, che l'Italia abbia bisogno di un governo forte, di un governo capace di decidere, forse anche di un governo capace di fare le riforme, un governo che arrivi e che aumenti le tasse, quindi meglio andare, è la mia opinione, è meglio andare al voto il più presto possibile, senza danno, senza tragedie, uno vince e l'altro perde, chi vince governa e l'altro concorre al bene del paese stando all'opposizione. Questo se ci fosse una legge elettorale più certa. Comunque, onorevole Galan, c'è anche... Però me la lasci dire una cosa, non c'è nessuna legge elettorale nel pianeta che garantisca la vittoria all'uno all'altro, neanche quella anglosassone. No, ma non che garantisca la vittoria all'uno all'altro, cioè garantisca almeno un equanime premio di maggioranza, per esempio alla Camera e al Senato, per cui se uno vince e ottiene una maggioranza alla Camera, sappiamo che invece il Senato è eletto su una base diversa, a livello regionale, eccetera, e quindi magari uno vince alla Camera ma non vince al Senato, almeno se uno vince anche di poco alcune elezioni, che governi 5 anni. Però mi faccia sentire anche il direttore Antonio Padellaro, c'è anche onorevole Galan, glielo dico ogni tanto, il cellulare va via, magari se riesce a stare in una posizione dove proviamo anche a richiamarla. Antonio Padellaro, in tutto questo si è messa anche la vicenda della, come definirla, l'intercettazione, c'è da dire intercettazione intercettata, una conversazione intercettata in cui Berlusconi, parlando con un parlamentare del PDL, ha detto Napolitano avrebbe fatto pressioni in pratica sui giudici del caso Mondadori, o meglio, voleva saperla sentenza prima che uscisse. Ci mancava solo questa, Padellaro, per rendere il clima ancora più incandescente. Beh, in effetti dobbiamo dire che Berlusconi non è sfortunato, perché se una sponda poteva avere era quella proprio di Napolitano del Quirinale, che ha cercato nei limiti del possibile in tutti questi mesi di trovare un modo perché lui, diciamo, fosse leggermente più tranquillo e riuscisse anche a dormire la notte, perché abbiamo appreso che purtroppo soffre di un'insonnia cronica. E questa telefonata evidentemente ha fatto infuriare Napolitano, e si capisce anche perché le cose che riferisce in questa telefonata, come si dice, rubata, Berlusconi, sono abbastanza gravi e anche abbastanza poco credibile. Però non è appunto rubata, cioè questa telefonata. È rubata nel senso che non, Berlusconi non sapeva che quello che lui diceva sarebbe stato poi trasmesso in televisione. Cioè neanche un'intercettazione da un fascicolo giudiziario, qui siamo proprio a un'intercettazione. Sì, sì. Ma certamente, questo lo dice anche lunga su un piccolo particolare in questo momento secondario, cioè chi ha fatto sentire la telefonata in viva voce al giornalista della Sette è un esponente del PDL, no? Quindi diciamo che lui, mentre il povero Cicchito viene impedito di parlare, sembra di rivedere le scritte durante il ventennio, qui non si parla di politica né di alta strategia, no? Sui muri quando c'era il Duce, e poi mentre evita il dibattito interno, poi gli esce questa telefonata. Ma questi sono, diciamo, aspetti secondari. Io ho l'impressione, e capisco anche la cautela dell'onorevole Galan, ho l'impressione che siamo all'8 settembre, non neanche più al 25 luglio, all'8 settembre del PDL, nel senso che questa storia, questa spaccatura non è destinata a sanarsi proprio per niente, e credo che ne vedremo delle belle domani se Letta dovesse chiedere il voto di fiducia. C'è una parte del PDL che non accetta più di ubbidire non solo a Berlusconi ma alla Santa anche, perché qui il fatto qual è? Che il gruppo dirigente del PDL non è più formato da Berlusconi, Alfano o dei capigruppo, è formato da Berlusconi, da quanto si capisce, dalla Santanchè, i cosiddetti falchi, Verdini, Capezzone, costretto Berlusconi o consigliato a Berlusconi di chiedere le dimissioni dei ministri. Ora, io capisco tutto, ma effettivamente che un ministro si veda dimesso da un minuto all'altro dalla Santan, che è dura da mandare giù. Onorevole Galan, c'è questa divisione Falchi, cioè, c'è un Berlusconi, lei lo vede lucido nelle decisioni personali oppure è diretto in qualche modo dai cosiddetti Falchi? Guardi, a me viene da ridere che io capisco che si possano confondere i desideri con la realtà, i sogni con la realtà. C'è il sogno di un partito spaccato, il sogno di un partito aperto, il sogno, ma a me dispiace che la riunione di ieri fosse a porte chiuse, perché uno avrebbe potuto vedere un Berlusconi lucidissimo e un partito compatto. Ora, che ci siano diverse sensibilità mi sembra anche logico. E che cosa avremmo dovuto ma dire? Mi scusi Galan, le interviste scusi, ieri sul Corriere Beatrice Lorenzin che dice non voglio un partito come Alba Dorata, che è, voglio dire, il partito dei neonazisti in Grecia, cioè sono interviste sono interviste che sarebbe stato meglio non fare, non dire e forse neanche non pensare. Anche i più critici della gestione, come sono stato io nel passato, non hanno mai usato questi termini, hanno usato altre. Certo che c'è un momento di disagio, perché sappiamo benissimo che anche il nostro elettorato è in questo momento in una parte colpito, emozionato, anche aspetta di capire. Però che ci siano divisioni, ecco, ieri dice più emozionato mi scusi, a me veniva più incazzato che emozionato. lei dice sì, sarà incazzato per l'aumento dell'IVA, incazzato per l'aumento delle tasse, incazzato per il mancato taglio delle spese, incazzato per le mancate riforme, è incazzato per un governo debole. Ecco, per questo è giustamente incazzato. Lo siamo noi, ognuno con la sua sensibilità, ma il partito è unito e che si decida che si ritira la delegazione ministeriale, sì. Ma insomma non è mica una novità. Si vedrà domani poi, devo dire, non so, Padellaro sulla questione, Galan dice la sua posizione, il partito è unito, anzi se si fosse vista la riunione di ieri si sarebbe potuto vedere un partito assolutamente unito. In realtà qua Padellaro parliamo di cose che alla gente secondo me sfuggono, nel senso sono importanti per carità, ma alla luce di questo invece l'IVA questa è una cosa, è una certezza, non ci sono idee, il partito è unito, non, questa è una cosa sicura, l'IVA è aumentata. Allora ai cittadini, Padellaro, interessa di più questo o vedere l'ennesimo teatrino importante per carità della politica, visto che si discute le sorti di un governo? La risposta è implicita nella domanda, insomma, io credo che non è mai forse nella storia anche abbastanza disgraziata della politica italiana un distacco tale dei cittadini da quello che succedeva nei cosiddetti palazzi è avvenuto con una tale forza. Oggi diciamo come stanno le cose, Berlusconi, perché sennò non si capisce che sta succedendo, Berlusconi deve risolvere il suo problema con la giustizia. Berlusconi non vuole decadere da senatore, ricordiamo che tra due giorni e tre giorni la giunta del Senato voterà sicuramente la sua decadenza e ricordiamo anche che non stanno per scattare i provvedimenti della Corte d'Appello tanto verrà applicata la Corte di Cassazione e lui dovrà scegliere tra i servizi sociali e gli domiciliari, e poi ci saranno provvedimenti della Corte d'Appello che aggiungeranno altra ineleggibilità e decadenza. Questa è la battaglia di Berlusconi e credo che l'abbiano capito bene anche molti elettori del PDL, perché ha ragione l'onorevole Galan quando dice sono incazzati non solo quelli del PDL, tutti gli elettori, perché aumenta l'IVA, perché questo è un paese allo sfacelo, ma sono incazzati perché hanno capito molti elettori del PDL che Berlusconi si sta facendo scudo del governo, vuole la crisi, e in qualche modo ha provocato anche lui l'aumento dell'IVA per proteggere se stesso, perché bisogna fare un ragionamento semplicissimo. Se Berlusconi non avesse provocato la crisi, probabilmente si sarebbe potuto approvare il decreto che rinviava l'aumento dell'IVA, sì, per dirne una. Sì, per tre mesi, non che questa. Per tre mesi, non è che questa sarebbe stata il tocca sana. Intanto bisogna dare atto che questo governo, che è un governo scombiccherato, che è nato su una base politica assurda, cioè veramente il mettere insieme PD e PDL era fin dall'inizio un'assurdità. Comunque, con il povero Letta, Saccomanni, qualche ministro di buona volontà, delle cose cercava di farle, però dirlo. Ne parla già il passato lei, Padellaro. Ma comunque, certo, il governo è morto, a meno che Alfano e Lupi e gli altri ministri non abbiano un soprassalto di dignità e domani o quando si voterà non dicano: noi a questo disastro non ci stiamo. Beh, stando a quanto dice Galan, ma riprenderemo da qui tra un attimo dopo la pubblicità, non può succedere, visto che il partito è unito, magari non granitico ma unito. In ogni caso, con Giancarlo Galan e con Antonio Padellaro riprendiamo tra un attimo anche le vostre chiamate 800 24 00 24. Che ne pensate? 24 mattino. Eccoci qua alle 8:37 minuti, la situazione politica. Siamo con Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, con l'onorevole Giancarlo Galan del Popolo della Libertà. Vorrei sentire come ascoltatrice, ascoltatori, Maria Grazia da Padova. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Eccoci, Maria Grazia, dica. Dunque, senta, stiamo vivendo un momento tragico e non so se questi signori riescono a rendersi conto fino in fondo di quale sia la situazione. Parlo dei politici. Sì. Parlo del PDL, in cui c'è un capo che compra, e l'abbiamo visto, dichiarato pubblicamente da De Gregorio e non da solo, e non solo da De Gregorio. Io avrei pagato più che volentieri l'IMU, in qualche modo ce la possiamo permettere, non moltissimo. Cioè, lei ma ragazza, crede a De Gregorio, lo vede, dice... Senta, mi scusi, a chi dobbiamo credere? Un signore che ha dichiarato che domanda. La nipote di Berlusconi era la nipote di Mubarak, era la signorina che frequentava. Secondo lei c'è qualche differenza? A me pare quasi che sia più credibile De Gregorio. Sì. Quindi lei dice: siamo in un momento tragico, la gente, i politici non capiscono questo momento, e quindi... Assolutamente. La loro seraficità e la loro provocatorietà, e soprattutto parlo della Santanchè, il fatto che la stampa sia in mano a figure come Sallusti, di cui abbiamo visto. Vabbè, insomma, lei dà dei giudizi, insomma. E quindi, Maria Grazia, lei, cioè, oltre a fare un piccolo editoriale sul quale, che considerazione può fare, a parte essersi un po' sfogata? Che si rendano conto fino in fondo di quello che sta capitando. Sì. Preciso che il 14 sarò a Roma a mia volta per a protestare fare contro tutto quello che sta capitando. Che cosa c'è il 14, mi scusi? C'è la manifestazione di cui ha parlato ieri sera, se non ricordo male, appunto sulla 7, sindacalista di cui in questo momento non lo so. E comunque, una manifestazione in cui ci sarà da dimostrare che c'è da difendere la Costituzione. E non ho capito, una manifestazione in difesa della Costituzione. Lei, Maria Grazia, sarà il 14 a Roma. Grazie. E Flavio, andiamo proprio a Roma. Flavio da Roma. Ah, buongiorno, complimenti per la trasmissione. Dica. Buongiorno agli ospiti. Niente, il discorso è molto semplice. Col senno di poi basterebbe dire che era quasi chiaro che andasse a finire così. Io sinceramente farei un discorso differente, tanto ormai si sono spese tante parole sul scollamento tra i nostri dirigenti politici e la popolazione reale, il fatto che sembra quasi che loro non vivano in questo paese, mentre noi sì, purtroppo, purtroppo a queste condizioni, perché questo è un paese bellissimo, il problema è tartassato, i cittadini sono tartassati, i politici, non lo so. E io farei un discorso differente, non me la prenderei nemmeno troppo con il PDL, con le manovre politiche interne, perché tanto le manovre politiche le fanno tutte, le fanno quelle del PDL, le fanno quelle del PD, tant'è che si sono messi insieme. Io sinceramente rimango basito, perché probabilmente domani, quando ci sarà questa benedetta votazione, se effettivamente si tratterà di votare la fiducia al governo Letta, e se effettivamente, come hanno detto già da ieri, se ne fregheranno dei quei 4, 5, 10, 20 senatori che serviranno per fare questa benedetta maggioranza risicata, compreso tra l'altro i 5 senatori a vita che Napolitano si è affrettato. Beh, questo è interessante, sono 4. Flavio, mi dà lo spunto per fare una domanda. Onorevole Galan, per lei sarebbe scandaloso che votassero i senatori a vita anche? No, sarebbe scandaloso che si facesse un governicchio per sopravvivere, sarebbe scandaloso che di fronte a una situazione che merita un governo forte, deciso, coeso, compatto, si scelga una soluzione di sopravvivenza, di mera sopravvivenza. Ma io devo dire che ho troppa stima, nonostante questa esperienza negativa di Letta e anche di Napolitano, perché trovo che sarebbe per davvero non fare gli interessi dell'Italia. Mi permetta anche di dire un'altra cosa, guardino gli elettori, la gente che ci ascolta, che scegliendo di rompere con il governo, di andare a elezioni nuove, non, a Berlusconi questo non conviene, non sconviene, non c'entra nulla la vicenda. In questo ma non c'entra la vicenda personale, Galan, non c'entra la vicenda personale. Non cambia nulla a questo punto per Berlusconi. Cioè, perché la lettura di molti, anche direttore Padellaro, è che questa vicenda personale, evidentemente anche con l'ossessione, perché è una persona che deve scegliere tra i servizi sociali e i domiciliari dopo una vita politica, non è certamente nella situazione, magari anche lucida, di poter decidere senza farsi trasportare anche dagli umori. Non crede che questo stia incidendo effettivamente sulla politica di un paese? Sta incidendo, perché uno deve essere anche Berlusconi, che sia ancora lucido, che sia perfettamente lucido e che sia freddo, questo è fuori discussione. A lui non cambia nulla, deve scegliere fra i domiciliari e i servizi sociali, anche se è al governo, anche se non è al governo. E l'Italia, che andando avanti così, non può scegliere fra le tasse che continuano a essere imposte, la mediocrità dei provvedimenti, continui rinvii, e invece la speranza, dopo un voto, di avere un governo, vincano gli uni, vincano gli altri, sì, che ci sia di governare. Allora, direttore Padellaro, chiedo a Padellaro un secondo in più del suo tempo. La storiella dell'IVA, insomma, è da giugno che il governo Letta la può togliere. Quindi che non vengano a raccontare la balla. Ma ci siete anche voi nel governo Letta? Colpa nostra, ma insomma. Ma no, scusi, Galan, lei dice il governo Letta come se fosse il governo del PD. Il governo siete anche voi, la potete togliere. Difatti, sì, è vero, io lo do già al passato. Lei dice già come il governo di quelli là, ma siete voi al governo con. Voglio dire, comunque. Paesi del mondo, si vota e si forma un nuovo governo. Ma io non lo so, al bene del paese, uno governando e l'altro facendo l'opposizione. Lo dice, no, questi ma lo dice, governi, lo dice questi governi, lei da subito ha detto questi governi sono governi pastrocchio. Direttore Padellaro, prima di salutarvi, poi ci aggiungerà anche un altro ospite per concludere. Direttore, che succederà domani? Galan ne parla già, no, potevano togliere il governo Letta, ma fa parte del governo Letta anche il Popolo della Libertà. Siamo anche a questa situazione, ma che succederà domani? Una previsione, direttore? Allora, intanto volevo dire che non è vero che per Berlusconi non cambia niente, perché se si sciolgono le Camere subito, come lui auspica, la procedura di decadenza da senatore si blocca, quindi già questo sarebbe un... lui potrebbe essere dichiarato ancora eleggibile alla luce poi della sentenza della Corte d'Appello, ma insomma, voglio dire... sarebbe un modo per bloccare una serie di conseguenze negative di tipo, chiamiamolo così, politico-giudiziario. Cosa succede domani? Le ipotesi sono due. O, come è possibile, Letta riesce a creare una maggioranza senza, diciamo, senza il PDL o Forza Italia, come si chiama oggi, e riesce a mettere insieme un governicchio sufficiente... per fare le cose che anche Napolitano chiede, cioè una riforma della legge elettorale fondamentale per tornare a votare, la legge di stabilità che è la legge chiave per la politica economica più altri provvedimenti, oppure se Letta non dovesse farcela, mi sembra evidente che Napolitano non scioglierà le Camere, ma affiderà a un personaggio che potrebbe essere o un tecnico o un tipo Saccomanni o un altro personaggio, diciamo, in, tra virgolette, indipendente, un governo di scopo, come si dice, per fare la legge elettorale, che presumibilmente potrebbero essere fissate per febbraio-marzo, o in coincidenza addirittura con le elezioni europee. Lei Padellaro non ha citato come possibili anche per un governo di scopo Giuliano Amato, anche perché oggi ho letto sul Fatto che vi querela, e quindi ecco quello. Non è il motivo, però. Non è quello il motivo. Caso nella storia delle querele in cui uno dice io vi querelo, ma non spiega per quale motivo. Magari alla prossima puntata ve lo spiegherà. Vi ringrazio, Antonio Padellaro, Giancarlo Galan, il traffico, e poi sei con noi, sarà con noi fino a chiusura di trasmissione il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, Nicola Morra. Tra poco. Ed eccoci qua, allora, per chiudere ancora 7 minuti, 24 mattino, siamo con il senatore Nicola Morra, che è l'ex, fino a poco tempo fa, capogruppo al Senato. Morra, buongiorno. Buongiorno a lei. Ovviamente il Movimento 5 Stelle sa, lo schema è sempre questo, tutti guardiamo al Movimento 5 Stelle a dire forse è la volta in cui ci sono possibili alleanze, e voi respingete come un muro a dire no, assolutamente, nessun tipo di possibili alleanze. Che succederà domani al Senato? Qualcuno di voi potrebbe magari anche passare dall'altra parte, appoggiare il governo Letta se servisse come numeri? Il Movimento è assolutamente compatto, anche ieri nella congiunta che ha fatto seguito all'assemblea di noi senatori si sono ribadite posizioni di assoluta fermezza determinata dal fatto che nel nostro esser nati c'è la volontà di abbattere il sistema partitocratico. Se poi dovessero essere i partiti a trasformarsi come noi auspicavamo, io ricordo a tutti quanti gli italiani che sul blog di Grillo è apparso quel famoso post Bersani firma qua per chiedere appunto la rinuncia ai rimborsi elettorali. Se poi dovessero essere i partiti a trasformare la loro identità e a diventare non più strutture di conservazione del potere, ma piuttosto strutture di servizio nei confronti dei cittadini, allora sarebbe un altro scenario. Ma fin quando le cose sono queste, noi non abbiamo nulla da condividere. Vede, mi ricordo che in Senato, nella discussione degli ultimi decreti legge, noi abbiamo più volte presentato degli emendamenti che volevano l'abolizione immediata dell'aumento dell'IVA a partire dal 1 ottobre. Appunto, questo sarebbe il motivo per cui il PDL, ad esempio, insomma, dovrebbe ritirare la fiducia al governo nel caso non si ottenga questo risultato. Benissimo, in tutte queste occasioni, a fronte di questa nostra proposta, qualunque formazione partitica presente in Senato ha votato contro questo emendamento. Però le chiedo semplicemente semplicemente perché era contrario al movimento. Noi valutiamo non le persone, per questo motivo noi non ma le proposte, dice, le proposte. Esatto, alle idee, ai valori. Però le chiedo questo, Morra. Prego. Mi scusi, Grillo ieri ha detto, o l'altro ieri, se il paese, se gli italiani votano ancora il PD o PDL, questi partiti, sono io che me ne vado, mi sembra che fosse così testuale, cioè ce ne andiamo noi, come dire. Ma cosa vuol dire? Cioè, messa così, come dire, se gli italiani sono ancora stupidi a votare... No. Allora, noi abbiamo assoluto rispetto degli elettori. Ed è questo il motivo per cui vorremmo che si tornasse alle urne, anzi vogliamo che si torni alle urne. Gli elettori, a fronte di questi ulteriori mesi che ci separano da febbraio, hanno avuto la possibilità di capire. Naturalmente si capisce nella misura in cui l'informazione è corretta. L'esempio di informazione scorretta nelle ultime ore lo ha fornito, che tempo che fa, con Letta, che ha fatto uno show di mistificazione della realtà in merito alla legge elettorale, a quanto. Però anche lì voi criticate questo, ma mi scusi, il Presidente del Consiglio non deve essere intervistato? Guardi, sono d'accordo sul fatto che magari le domande debbano essere un po' più incalzanti, magari. Come debbono essere intervistati sui fatti tutti, ma se io propongo delle opinioni va benissimo, ma se io altero dei fatti Oggi ho letto, ho sentito, insomma, che addirittura Letta avrebbe rettificato la sua posizione sostenendo che Grillo avrebbe ragione nel merito ma non nel metodo. Beh, allora, cioè il metodo è forse la manifestazione di ieri, l'Occupy Rai. Rispetto alla questione del Porcellum, del voto che c'è stato alla Camera per il ritorno al Mattarellum a seguito della mozione Giachetti. Allora, diciamoci la verità, quando in Parlamento c'è stata la possibilità di effettuare un voto che facesse ritornare gli italiani al sistema elettorale precedente, noi SL abbiamo votato in un modo, tutti gli altri hanno votato in altro modo, sì. Questa è la verità. Poi uno potrà fare tante considerazioni, tutte legittime, ma la verità è questa: sostenere che invece il Movimento abbia voluto fermarsi al Porcellum significa alterare la realtà e avallare il falso. E per questo voi avete fatto anche ieri questa manifestazione, diciamo, Occupy Rai. Per concludere, Morra, lei è sicuro che siete compatti? Perché tu, anche Galana qui ci ha detto siamo compatti, sono tutti compatti finché non succede il patatrac, giorni che i giornali raccontano che ci siano alcuni senatori, alcuni citati, il senatore Orellana, che potrebbero anche dire in nome della sensibilità e della sostenibilità un governo, passare e votarlo, per esempio. Sappia che in assemblea ieri abbiamo discusso, abbiamo ragionato, ma non c'è stata nessuna posizione né di gruppi né di singoli che hanno preannunciato una possibile preannunciato, però sa, queste cose non è che si preannunciano, uno magari con la sua coscienza, con la sua libertà di espressione può decidere. Bene, io le dico questo, per il dovere che avverto nei confronti dei miei elettori e dei miei colleghi, se io avessi qualche problema io lo riferirei prima all'Assemblea per confrontarmi con la stessa e per decidere insieme agli altri colleghi. Fatto sta che il sottoscritto, nel caso avesse qualche perplessità, ritirerebbe, o meglio darebbe le proprie dimissioni da senatore, farebbe subentrare il primo dei non eletti, perché io sono entrato in Parlamento con un mandato particolare e uno dei nostri slogan era mandiamoli a casa tutti. E voi sognate ancora questo, di mandarli a casa, che poi non si capisce cosa vuol dire mandarli a casa? Guardi, le spiego immediatamente. Sì. Noi abbiamo un rispetto enorme di tutti quanti gli elettori, di qualunque formazione politica, perché gli elettori sono cittadini. Dopo diversi mesi di vita parlamentare abbiamo ben poco rispetto nei confronti di tanti eletti, perché ci rendiamo conto che gli eletti vivono una condizione di privilegio da cui non vogliono assolutamente distanziarsi, recedere, perché poi il potere è questo, il potere blandisce, il potere seduce, e quindi magari si entra con le migliori intenzioni e poi dopo qualche mese si è già dimentichi di quanto si era detto. Dice, volete essere coerenti così. Ringrazio Nicola Morra, ringrazio anche l'ascoltatore che mi scrive un sms adesso scrivendomi: Milan, sei un pilotato di merda. Ma non ho capito, ascoltatore, sia un po' più preciso, pilotato da chi? Perché di merda l'ho capito, ma pilotato è un qualcosa che se non mi scrive chi mi pilota io non capisco. Grazie a Nicola Morra, senatore del Movimento 5 Stelle, grazie a tutti gli altri ospiti, Galan e Padellaro, con Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, Alessandro Marco Tulli in redazione, col nostro alpino Peter Bescapè. Vi diamo ovviamente appuntamento domani, ci potete seguire ovunque su Facebook, anche Twitter, Alino Milan, quello sono io, oppure 24 Mattino è la trasmissione. A domani 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica. 24 Mattino.